passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, gentili ascoltatori, 18:35 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. subito i titoli dei telegiornali TG2. Nuovo allarme dall'Irlanda, diossina nei mangimi dei bovini, controlli a tappeto anche in Italia. Irlandese, il 7% della carne importata tutta etichettata e riconoscibile. Ancora scontri in Grecia, rabbia e funerali ad Atene del ragazzo ucciso dalla polizia, anarchici in corteo a Salonicco, il premier Karamanlis promette giustizia ma basta violenze. Caso dei Magistris, atti dissequestrati dopo lo scontro, accordo tra le procure di Catanzaro e Salerno, Napolitano passo importante, nuovi interrogatori al CSM. 7 ragazzi minorenni, 4 maschi e 3 femmine devastano una stazione nel Torinese, scoperti grazie alle telecamere, tutti ubriachi, l'abbiamo fatto per divertirci. Da questa sera neve al nord anche a bassa quota, vento e temporali nelle altre regioni, torna il maltempo con mareggiate e acqua alta prevista a Venezia. Bene, non c'è dubbio che tra le cose più interessanti, più curiose, forse più divertenti che ho letto questa mattina sui quotidiani, c'è un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, ce n'è una più grande pubblicata dalla stampa Rino Formica. Rino Formica, per chi ha conosciuto la politica negli anni Ottanta, è un personaggio molto conosciuto, è stato uno dei protagonisti della cosiddetta Prima Repubblica, ministro delle Finanze, era uno dei più vicini, gli uomini più vicini a Bettino Craxi. Ebbene, di fronte a quello che sta avvenendo all'interno del Partito Democratico con le indagini della magistratura su molte giunte, Formica dice: diciamolo francamente, soddisfazioni maggiori di quelle che stiamo vivendo non potremo più averne da viventi. Nel 92 Luciano, che è Violante, Walter, che è Veltroni, tacevano su quello che accadeva tra magistratura e Partito Socialista. Andiamo a sentire Studio Aperto. Nuovi scontri ad Atene nel giorno dei funerali di Alexis, il quindicenne ucciso dalla polizia durante una manifestazione. Arrivano in 5.000 per l'ultimo saluto. Poi, intorno al cimitero e davanti al Parlamento, riesplode per il quarto giorno consecutivo la guerriglia. Bilancio 300 feriti e 150 fermi. Danni per decine di milioni. Sale la tensione in vista dello sciopero generale di domani. Allarme diossina, scattano nuovi sequestri. 17 tonnellate di carne suina proveniente dall'Irlanda bloccate dai NAS a Firenze. Altre 255 fermate dagli stessi fornitori in Emilia. I controlli si estendono ai bovini, ma gli esperti rassicurano: nessun rischio per l'Italia. Controlli a tappeto in tutte le regioni, finora i test sono negativi. Oggi altri 3 morti sul lavoro e 2 feriti gravi. A Bergamo un ragazzo di 20 anni perde la vita schiacciato da un cilindro di metallo di 1 tonnellata. Sgomenti gli ex compagni di scuola, era il primo della classe, perché non era all'università? Altre 2 vittime a Belluno e Pavia. Ore da Arancia Meccanica in Toscana, dove una banda di malviventi, forse albanesi, ha picchiato e rapinato una famiglia di Pian dei Giullari a pochi chilometri da Firenze. Bene, 18:38, 800 24 00 24. Iniziamo ancora con la questione morale, perché a me sembra interessante quello che ho sentito dire dal direttore del Riformista. Non è una novità naturalmente, però sentiamo anche questa in una trasmissione mattutina a proposito dell'esistenza o meno di una questione morale. Ebbene, la vera questione morale, dice Polito, e secondo me ha ragione, non sono tanto le inchieste, i rapporti tra gli amministratori locali, in questo caso del Partito Democratico, e gli imprenditori, a Firenze per esempio proprietari dei terreni, bensì il finanziamento pubblico ai partiti e l'irresponsabilità dei partiti nel gestire questo finanziamento pubblico. Per me la questione morale è un'altra. La questione morale è il finanziamento pubblico dei partiti, il fatto che alcune oligarchie dispongano di decine di milioni di soldi che vengono dai contribuenti e per i quali non sono tenute nessuna forma particolare di regole. Non avendo una legge dei partiti in Italia, ma essendo i partiti percettori di grandi finanziamenti pubblici, Noi non sappiamo, mentre insomma, una società che riceve dei fondi deve darne conto, deve pubblicare dei bilanci e così via, invece i partiti possono fare quello che vogliono. Anzi, i gruppi dirigenti dei partiti possono fare quello che vogliono. E il modo in cui questi gruppi dirigenti sono selezionati non è soggetto a nessuna norma pubblica, perché appunto problemi di democrazia interna sono in tutti i partiti italiani, e però questi usano i nostri soldi. Questa secondo me è la questione morale che riguarda oggi i partiti, la loro democrazia interna, la loro trasparenza e il modo in cui rispondono al taxpayer, cioè a chi paga le tasse, di come usano i soldi per le tasse. Il paragone con Obama va fatto al contrario, non guarda lì quanti soldi spende la politica, no, guarda lì quello che rifiuta il finanziamento pubblico perché prende più soldi con i privati. Però la trasparenza è, diciamo, molto superiore a quella italiana. Su questo non c'è dubbio. Come sapete, dagli Stati Uniti arrivano le notizie di un'inchiesta molto forte che non ha niente a che vedere con il finanziamento dei partiti, coinvolge, sfiora il presidente Obama, anche se il procuratore di Chicago ha appena detto che Obama non c'entra assolutamente nulla, perché il governatore dell'Illinois è stato arrestato con l'accusa addirittura di volere vendere il seggio senatoriale di Obama al maggiore offerente. Sempre Polito dice che in realtà c'è una questione giustizia più che una questione morale all'interno dei partiti, perché per esempio i vertici locali del Partito Democratico non sono nemmeno indagati. Ci sarà anche una questione morale, non voglio discutere in termini generali, ma c'è evidentemente ancor prima una questione giustizia. Perché qui stiamo parlando di una situazione in cui il sindaco Domenici, come lei ha detto, non è indagato. Il sindaco Iervolino non è indagato. Il sindaco Domenici è stato mascariato, come si dice in Sicilia, schizzato di fango da qualche intercettazione che in maniera non richiesta dal procedimento penale è uscita sui giornali, in cui parlava di atti che hanno a che fare di solito con l'attività di un sindaco. Quindi io vorrei capire dov'è questa ramificazione, diciamo, di una rete di malaffare che fa capo al PD, alle giunte locali o a una corrente addirittura, come dice lei. Non la vedo ancora, probabilmente c'è, però allo stato dei fatti la questione è il complesso mediatico giudiziario, come ha detto Domenici, cioè escono delle cose generiche ma sufficienti a sporcare l'onorabilità di un nuovo politico che è fondata sulla credibilità che ha. Escono soprattutto, a leggere l'inchiesta dell'Espresso sulla compagnia SPA che riguarda Firenze, escono presunte intercettazioni, nemmeno riportate in integrale, su conversazioni di Cioni, dell'assessore Biagi, di Missionario, del sindaco, dello stesso sindaco Domenici. Intanto l'Italia dei Valori parla naturalmente di questione morale, ma non c'era il minimo dubbio. Il capogruppo alla Camera, Donadi, che praticamente ripete le stesse cose di Di Pietro, fa una mezza scivolata, perché parla, e giustamente viene ripreso durante la trasmissione del pomeriggio su Sky TG24, di soluzione finale, cioè Berlusconi vorrebbe approfittare di questa situazione per arrivare alla sua soluzione finale nei confronti dei giudici, cioè dire sottoporre i giudici al potere esecutivo, però parla di soluzione finale, che non è mai bello. Ogni macchina dello Stato deve essere ammodernata e quindi anche la giustizia. Altra cosa però è quello che ha in mente da 15 anni il centrodestra, anzi un uomo, Silvio Berlusconi, che è la soluzione finale del suo rapporto personale con la magistratura. Non parliamo mai di soluzione finale, la prego Donadi, sotto la politica, che è un termine che fa drizzare i capelli in testa. Però anche questo rende l'idea di quello che è. Sì, ma è un termine atroce, evitiamo di utilizzarlo, la prego. E le parole sono importanti, e il termine soluzione finale certamente non è appropriato a nulla. Naturalmente la si può pensare in modo anche molto diverso sulla vicenda di Berlusconi, sui rapporti con la magistratura, ma la soluzione finale non c'entra niente. Proteste da parte dell'Arcigay per un film mandato in onda dalla Rai ieri sera, Brokeback Mountain, è un film molto famoso che ha vinto l'Oscar, uno dei film più visti nella storia del cinema. Ebbene, Franco Grillini, ma tutta la comunità gay, parla di censura, perché alcune scene sarebbero state tagliate, anzi sono state tagliate. Grillini è il penoso tagliuzzatore che ha fatto l'operazione. Tu sai chi è che decide la censura? Ah, ma qualche tagliuzzatore che di mestiere dovrebbe fare veramente qualcos'altro, non certamente il censore di un film. Ora, se non si riesce nemmeno a mandare in prima serata un film che ha vinto un festival di Stato, che ha vinto 125 premi, che è al 10° posto per film premiati in tutta la storia del cinema, che è ai primi posti in assoluto tra i film più visti, più venduti, più scaricati da internet, più venduti in DVD, eccetera eccetera, beh, onestamente io devo dire che siamo di fronte veramente a una classe dirigente penosa della TV di Stato. Più che di censura si deve parlare in questo caso, secondo la ricostruzione della RAI, ad un caso di scarsa efficienza, che è incredibile in un'azienda enorme come la RAI, ma pare che sia arrivata solamente una versione appunto censurata, mentre la RAI aveva chiesto anche una versione integrale che comunque verrà rimessa in onda. A proposito di quello che sta accadendo ad Atene, c'è un'intervista molto interessante sul Giornale questa mattina a un poeta molto conosciuto che si chiama Anastasios Vagenas, che ha 63 anni, che se la prende soprattutto con gli anarchici, perché tutti stanno parlando di questione sociale anche qui, di rivolta in cui il governo non tiene conto di quelle che sono le esigenze degli studenti, ma in realtà i veri artefici di queste violenze sarebbero 300-400 anarchici. Sono pochissimi, dice Vagenas, hanno tra i 18 e i 35 anni, con punte di 40 per i loro capi. Si infilano in passamontagna e vanno in giro a rompere vetrine, lanciare bottiglie Molotov, rubare indisturbati. Si accodano a qualsiasi manifestazione pacifica, la inquinano subito. Quello che succede in queste ore è già accaduto, nessuno li ferma. Direttamente dal Senato, il senatore Francesco Pancio Pardi dell'Italia dei Valori. Buonasera. Buonasera. E oltre a essere senatore, è soprattutto fiorentino. Allora, che cosa sta accadendo nella sua città? Ma purtroppo non stanno accadendo cose simpatiche. Ora tutta la scena è occupata dal gesto mediatico del sindaco, ma in origine... Lei come lo giudica questo gesto? Opportuno, poco diciamo, adatto alla figura di un sindaco? Mi sembra che abbia il difetto di dislocare su un piano personale una questione che è essenzialmente pubblica. Io non credo che sia in questione l'integrità del sindaco, mi sembra però che ci sia l'interrogativo legittimo, molto diffuso nella società, sull'intera classe dirigente locale e questi interrogativi nascono da una gestione dell'urbanistica perlomeno molto discutibile. Cioè lei ci vede della ciccia in queste indagini su Firenze, delle cose concrete? Voglio essere preciso, più che la questione giudiziaria che ignoro e che francamente non so giudicare, vorrei mettere l'accento sul fatto che è la gestione urbanistica, la pianificazione territoriale, la gestione del territorio che causa questo tipo di faccende. Cioè la ricerca continua di costruire. Quest'idea moderna per cui non devono esistere più vuoti e tutti i vuoti devono essere riempiti con qualcosa, con centri commerciali, multiplex, multisala, insediamenti universitari, stadi. Cioè, però è anche il progresso, senatore Pardi. Sì, è il progresso, sì, però c'è un'esagerazione, cioè una lì c'è un pezzo di periferia che non è appetibile sotto nessun profilo, tra il margine urbano, l'autostrada, l'aeroporto, la ferrovia. Sì. È diventato appetibile solo perché prima se l'era comprato Fondiaria e poi se l'è preso Ligresti, ma se non esistesse un promotore immobiliare, quello è un pezzo che poteva benissimo restare vuoto oppure dedicato ad un parco. Invece no, va riempito l'area Fiat, che la Fiat aveva avuto a bassissimo costo perché portava lo sviluppo industriale. Quando la Fiat se n'è andata è diventato uno spazio urbano valutato a peso d'oro e in cui naturalmente bisognava metterci di tutto. Senta, c'è un altro argomento però, che è quello che può fare un'amministrazione comunale. Al di là delle responsabilità personali, se ci sarà o no corruzione nei confronti dei due assessori coinvolti finora e delle altre persone coinvolte, c'è una grande difficoltà da parte di un'amministrazione comunale che, mettiamo il caso di Firenze, vuole costruire uno stadio in una zona. Naturalmente per costruire lo stadio in una zona ci sono vincoli, controvincoli, eccetera, eccetera, però uno può essere d'accordo o meno, come dice lei. Io credo che da questo punto di vista tutti i comuni in Italia abbiano delle grandi difficoltà a fare qualcosa di concreto, o no? Sì, certamente, soprattutto quando lo spazio a disposizione non è molto. Non bisogna mai dimenticare che l'Italia è stretta, montuosa, cioè non è come la Francia dove c'è un sacco di spazio largo, no? Ma lì la questione dello stadio a Firenze colpisce l'attenzione non perché obbedisce, diciamo così, a un'esigenza sociale che come quella che lei mette in astrattamente in evidenza, e colpisce perché c'è una proposta di un promotore immobiliare che poi è il proprietario della squadra, un interesse dell'amministrazione e un interesse di quello che possiede l'area, ma questa cosa non passa attraverso una progettazione, perché semmai la progettazione immaginato il parco. Sì, quello che dice l'amministrazione in teoria è quello che vogliono i cittadini, perché l'amministrazione è stata eletta per questo. Sì, però non passa mica la cosa dello stadio lì, passa attraverso una procedura quantomeno, diciamo così, quasi privata, cioè sono loro che tra di loro se la dicono, no? E tant'è vero che dalle registrazioni sembra che venga chiesto di cambiare la variante, perché la destinazione originaria era diversa. Senta, lei ci crede alle ipotesi di corruzione che sono state fatte, i favori personali da parte di alcuni assessori, che sarebbero stati fatti da alcuni assessori? Abbiamo letto quello che ha scritto l'Espresso. No, io vorrei non crederci. Ed esiste una questione morale nel Partito Democratico? No. Esiste una questione morale all'interno del Partito Democratico? Esiste una questione di gestione del territorio nel Partito Democratico che ha molti lati opachi, e non solo a Firenze. C'è in generale, un po' dappertutto, quest'idea che la gestione del territorio la si deve fare per forza tramite un rapporto triangolare tra la politica che comanda, l'amministrazione che esercita, la gestione del territorio e i promotori degli affari. E per forza dentro questa triangolazione, che poi è una quadrangolazione, si determinano delle cose che non sono mai, quasi mai trasparenti, dove i guadagni sono sicuri ma non si sa bene come vengono costruiti, e spesso l'interesse pubblico è trascurato a vantaggio dell'interesse privato. Bene, senatore, la ringrazio. È una cosa che è abbastanza diffusa dappertutto. Anche se secondo me l'interesse pubblico è sempre rappresentato per gli anni in cui rimane in carica dal governo provinciale, regionale o comunale. Bisogna vedere, no? Quella è la rappresentanza, non bisogna confondere la rappresentanza politica con l'interesse pubblico. Ci può essere benissimo il caso di una rappresentanza politica che in realtà, invece di compiere e realizzare l'interesse pubblico, favorisce interessi privati. La ringrazio. 18:54, andiamo a Napoli da Gianluca. Buonasera. Buonasera dottor Cruciani, innanzitutto complimenti vivissimi per la trasmissione. La ringrazio, vado al sodo perché abbiamo poco tempo, dica pure. Guardi, io voglio dire solo una cosa, non conosco i dettagli della vicenda giudiziaria di Firenze né credo siano interessanti ai fini di un discorso generale. Quello che però ritengo sia importante dire è che io non credo esista una questione morale del PD o una questione morale di altri partiti. Esiste però un legame strettissimo tra la politica e gli affari, che è funzionale alla politica e agli affari, che talvolta può sfociare in ipotesi di reato, ovviamente addebitabili ai singoli. Ma la cosa più importante è che questa vicenda io credo che possa in qualche modo testimoniare che il PD non può arrogarsi il diritto e la prerogativa di essere l'unico partito estraneo a certe logiche che imperano in Italia, credo, almeno da una quarantina d'anni. Va bene Gianluca, la ringrazio. Andiamo a Livorno, Federico, buonasera. Buonasera a voi. Io volevo solamente dire una questione relativa appunto alla questione morale del PD. Devo dire che questo problema in Toscana è abbastanza diffuso, io vivo a Livorno, c'è a Livorno, io lavoro a Pontedera, cioè a Pontedera conosco delle persone che sono molto inserite nel partito e percepisco nelle loro facce, nei loro discorsi, proprio questo scoramento anche nei confronti della classe politica nazionale, ma a questo punto si scende nel regionale e via via anche nel cittadino. Il problema è questo: nessuno, per l'amor di Dio, è esente da errori, ammesso che questi ci siano nel caso di Firenze, poi bisogna vedere anche le risultanze giudiziarie, qualora appunto ci sia anche della corruzione. Sì, perché diamo già per scontate alcune cose mentre siamo solamente agli inizi delle inchieste, cioè, come al solito. Esatto, bisogna stare molto attenti. Detto questo, però, io ho una mia convinzione personale. Il fatto è che quando una persona ricopre delle cariche politiche per troppo tempo, fatalmente può incorrere... A chi si riferisce in particolare? Ma guardi, io mi riferisco molto genericamente a tutti, c'è anche la... Beh, perché per esempio molti dirigenti, come lei sa, del Partito Democratico a Firenze sono dirigenti militanti da tanto tempo, infatti, prima nel Partito Comunista, parlavamo prima dell'assessore Scioli. Esatto, e dice che restare tanto tempo all'interno di quelle amministrazioni può portare ad una gestione del potere personale, a contatti troppo stretti con mondi imprenditoriali legati, esatto, dico, alla città. Federico, la devo interrompere perché abbiamo il giornale radio, ci sentiamo anche con lei più avanti. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3. Grecia, nuovi scontri durante i funerali del ragazzo ucciso dalla polizia, Parlamento assediato da manifestanti, pugno duro del governo. Carne alla diossina dall'Irlanda, un nuovo allarme, contaminate anche le mucche, in Italia controlli e sequestri cautelativi, il ministro tranquillizza. Dopo lo scontro, la pace, le procure di Salerno e Catanzaro firmano un accordo, Napolitano un passo significativo, nuove audizioni al CSM. Fini, su giustizia assetto della magistratura necessaria una riforma condivisa, ma Bossi insiste, avanti col federalismo, il PD niente forzature. Arrestato il governatore dell'Illinois per frode e corruzione, secondo l'FBI tentava di vendere al miglior offerente il seggio di Obama al Senato. 4 morti sul lavoro, 2 operai avevano 20 anni, a Belluno un uomo schiacciato da una lastra d'acciaio, morto un sub, gravi altri 2 operai. Richard Gere, ancora principe azzurro in Come un uragano, e sulla crisi dice al TG3 i paesi ricchi devono ridistribuire le risorse. Beh certo, detto da Richard Gere che i paesi ricchi devono ridistribuire le risorse fa un certo effetto. Ricordate il concorso per magistrati, lo scandaloso concorso svoltosi a Milano in condizioni assurde? Bene, c'è la versione del presidente della commissione d'esame, che è il giudice di Cassazione Maurizio Fumo, che l'ha inviata al Consiglio Superiore della Magistratura, e insomma a sentire e a leggere anzi questa relazione le cose stanno un po' diversamente da come le si erano immaginate prima. Per carità, resta la disorganizzazione, un concorso assurdo con migliaia di persone costrette a fare il giro d'Italia per andare a Ro a sostenere un esame, cose dell'altro mondo che non dovrebbero esistere, e però i futuri magistrati insomma iniziano male, perché candidate con i codici nelle mutande, poliziotti costretti a espellere i futuri PM più turbolenti, insomma una serie di illegalità che in un concorso per diventare magistrati certo non dovrebbero esistere, compresi il fatto che alcuni esaminatori a un certo punto se la sono data a gambe. Questa non è una versione degli studenti o dei futuri PM e dei futuri magistrati, ma è la versione del presidente della commissione d'esame. Andiamo a sentire Sky. Atene, migliaia di persone ai funerali del ragazzo ucciso, scontri davanti al cimitero. Carne alla diossina, l'Irlanda conferma, contaminati anche i bovini. Guerra fra procure, tregua fra Catanzaro e Salerno, dissequestrati gli atti delle inchieste. Giustizia, interviene Gianfranco Fini, necessaria una riforma condivisa. Delitto fortunio, il procuratore di Reggio Calabria chiede 4 ergastoli per killer e mandanti. Vandali per noia, banda di minorenni devasta una stazione nel torinese. Stati Uniti, in manette il governatore dell'Illinois, cercò di vendere il seggio lasciato da Obama. Rapporto FAO, un miliardo di persone nel mondo soffre la fame, in un anno 40 milioni in più. Pacchetto clima, intesa europea sulle fonti rinnovabili, Barroso, obiettivi non negoziabili. Champions, la Roma col Bordeaux per la qualificazione, Gattuso KO, stagione finita. Bene, 19:20, 800 24 00 24. Prima di riprendere la questione morale, tutte le discussioni intorno alle inchieste che coinvolgono il Partito Democratico, dopo 2 giorni già mi sono stancato, giustamente un ascoltatore prima mi suggerisce, beh, insomma, questi argomenti di oggi sono piuttosto noiosi, è vero. gli do ragione, ci chiami e ci suggerisca qualcosa di più frizzante. Sentiamo quello che ha detto a proposito di parole frizzanti l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti questa mattina, perché è evidente che ormai sulla tratta Milano-Roma la vera concorrenza alla nuova CAI o in generale agli aerei non verrà da altri aerei e da altre compagnie, non ce ne sono praticamente, ma verrà proprio dai treni, da quando soprattutto ci sarà tra Milano e Roma, anzi tra Milano e Bologna, l'altissima velocità, chiamiamola così, che permetterà di raggiungere Bologna e Milano da Bologna in un'ora circa. Sentiamo Moretti. Ma noi pensiamo di arrivare in breve tempo in due anni al 60%. Due anni vuol dire, considerando anche il prossimo, quando taglieremo un'altra mezz'ora tra Roma e Milano, avendo completato il pezzo di tratta tra Bologna e Firenze. A quel tempo tra Roma e Milano ci saranno tre ore. 60% addirittura di traffico che l'FS fra due anni pensano di rubare alla nuova CAI. Vedremo naturalmente, grandi investimenti da questo punto di vista, ed era l'ora, perché insomma negli ultimi anni certo gli investimenti, negli ultimi 15-20 anni gli investimenti nell'alta velocità sono costati tantissimo e non ci hanno fatto fare grandi passi in avanti rispetto agli altri paesi europei che invece corrono, però si va avanti soprattutto con questa gestione delle Ferrovie dello Stato. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta. La questione morale non è quella delle inchieste, quella di cui tutti parlano, ma sta soprattutto nel finanziamento dei partiti, nel finanziamento pubblico dei partiti e come viene gestito questo finanziamento. Sentite Antonio Polito, direttore del Riformista. Per me la questione morale è un'altra. La questione morale è il finanziamento pubblico dei partiti, il fatto che alcune oligarchie dispongano di decine di milioni di soldi che vengono dai contribuenti e per i quali non sono tenute nessuna forma particolare di regole. Non avendo una legge dei partiti in Italia, ma essendo i partiti percettori di grandi finanziamenti pubblici, noi non sappiamo, mentre insomma, una società che riceve dei fondi deve darne conto, deve pubblicare dei bilanci e così via, invece i partiti possono fare quello che vogliono. Anzi, i gruppi dirigenti dei partiti possono fare quello che vogliono. E il modo in cui questi gruppi dirigenti sono selezionati non è soggetto a nessuna norma pubblica, perché appunto problemi di democrazia interna sono in tutti i partiti italiani, e però questi usano i nostri soldi. Questa secondo me è la questione morale che riguarda oggi i partiti, la loro democrazia interna, la loro trasparenza e il modo in cui rispondono al taxpayer, cioè a chi paga le tasse, di come usano i soldi per le tasse. Il paragone con Obama va fatto al contrario, non guarda lì quanti soldi spende la politica, no, guarda lì quello che rifiuta il finanziamento pubblico perché prende più soldi con i privati. Però la trasparenza è, diciamo, molto superiore a quella italiana. Ma su questo non c'è il minimo dubbio. Voglio riprendere qui l'intervista fantastica di oggi al Corriere della Sera e anche alla Stampa, per carità, sulla Stampa molto più ampia, due pagine di Claudio Sabelli Fioretti, a Rino Formica, storico esponente socialista dell'epoca Craxi, che sorride, sornione, forse come molti socialisti protagonisti di quello che avvenne all'epoca, cioè la distruzione del Partito Socialista da parte dei giudici e da parte anche non solo di giudici, da parte degli altri partiti, in particolare il PCPDS, eccetera, eccetera. Diciamolo francamente, soddisfazioni maggiori di quelle che stiamo vivendo, dice Formica, non potremo più averne da viventi. Prosegue Formica, dice, dovrebbe riaprire il Partito Democratico la questione con onestà, adesso questo non lo so perché è passato del tempo, comunque dice Formica che addirittura i dirigenti del Partito Democratico dovrebbero riprendere il discorso di Craxi alla Camera, quando Bettino pose il problema, distinse le responsabilità individuali da colpire da quelle del sistema politico che sapeva e aveva accettato e tutti rimasero zitti, insomma quel famoso discorso sul finanziamento della politica. Poi parla dei rapporti sul tema della giustizia tra il vecchio Partito Comunista, poi PDS e il Partito Socialista. Veltroni dovrebbe dire che fu un errore non sostenere Craxi, e comunque nel 92 lo stesso Veltroni e Violante tacevano, anzi sostenevano i magistrati. Federico da Livorno voleva concludere il suo intervento. Federico, dica, elettore del Partito Democratico, deluso mi sembra da quello che succede nell'amministrazione locale, no? Se non sbaglio, se non ricordo male. No, diciamo, ricordo parzialmente bene, nel senso che io comunque il partito già da prima non pensavo di non votarlo, perché appunto nasceva come una fusione a freddo. Comunque, a parte queste convinzioni mie personali relativamente appunto alla questione politica più generale, stavo dicendo che una notazione storica, forse anche impropria, ma secondo me un fondo di verità c'è: i romani la sapevano lunga, sapevano che una carica politica doveva durare al massimo un anno, e poi sapevano che dovevano togliersi dai piedi certi personaggi, perché sennò si incancrenivano nel potere. Penso che il politico dovrebbe essere, diciamo, un mestiere a tempo determinato, una persona offre il suo contributo, le sue capacità, dopodiché rientra nel mondo del lavoro, altrimenti c'è uno scollamento naturale, connaturato nell'essere umano, nella realtà delle cose. Beh, su questo però ci sono, diverse ci sono diverse teorie, la ringrazio. Alcuni dicono che restare in carica per poco tempo invece è un elemento di distorsione da quel punto di vista, altri sostengono invece il contrario, per cui bisogna vedere. Un ascoltatore mi suggerisce Repubblica di oggi, in cui c'è questo sondaggio, non è solo su Repubblica, con l'Italia dei Valori all'8%, ma insomma sono cose arcinote, io non faccio molto caso ai sondaggi, tra una elezione politica e l'altra, soprattutto dopo pochi mesi. A Di Pietro la questione morale non riguarda. Marco, un altro ascoltatore mi dice: ma in Italia arresteranno mai un politico per corruzione come negli Stati Uniti? Con una punta di soddisfazione lo dice questo ascoltatore. Ma certo che arrestano i politici, il problema è che in Italia tutto succede prima del giudizio e si emettono sentenze prima che inizi un processo. Andiamo a Alberto da Milano. Buonasera dottor Cruciani, buonasera ai suoi ascoltatori. Dica. Il mio intervento verteva in merito ai disordini scoppiati in Grecia e volevo solamente fare questa riflessione. A livello di media nazionale è stato dato molto risalto al casus belli dell'uccisione da parte dei poliziotti di questo giovane ragazzo esponente cosiddetta dell'estrema sinistra o comunque di movimenti legati ai movimenti anarchici appunto greci. Quando probabilmente, come è stato nel caso delle baglie parigine, questo è vero, questo omicidio è stato un casus belli per l'inizio dei disordini. Quello che non si sta facendo, o perlomeno che io non ho visto nei media italiani, è condurre, non dico un approfondimento né tantomeno un'indagine, ma almeno fornire uno spettro di informativo in cui vengono presentate le diverse tensioni presenti all'interno della realtà greca, sia a livello non solo studentesco ma a livello vero e proprio sociale. Alti tassi di corruzione, alti tassi di disoccupazione, comunque una crisi profonda che sta investendo la Grecia in quanto paese. Ma io non so, Alberto, quanto stiano lavorando bene i media italiani sulla questione greca, francamente non mi interesso di questo aspetto. Dico semplicemente che spiegare così dall'esterno, leggendo più o meno le cronache che fanno i giornali italiani, le varie interviste, eccetera, cercare di spiegare quello che sta avvenendo, cioè il fatto che 500, al di là dell'uccisione e delle manifestazioni, gli incidenti sto parlando, spiegare gli incidenti creati da 500 anarchici che devastano la città, spaccano tutto, con le tensioni sociali o con la disoccupazione o altre cose, con la precarietà, mi sembra una cosa assurda. Poi le manifestazioni avranno le loro motivazioni, ci sarà pure questa tensione sociale in Grecia, però tutto questo con la devastazione che c'è di negozi, macchine, non c'entra assolutamente niente. Se qualcuno ancora si domandava dell'utilità di una commissione come quella parlamentare di vigilanza sulla RAI, ebbene, l'iniziativa presa dal suo presidente Villari nei confronti di Fabio Fazio, l'apertura dell'istruttoria appoggiata da alcuni esponenti del centrodestra, bene, questa è la dimostrazione lampante, pratica, evidente della inutilità totale di quella commissione per quello che riguarda i cittadini, naturalmente, invece della grande utilità di questa commissione per quello che riguarda la visibilità delle persone che ne fanno parte, in particolare del suo presidente, perché aprire un'istruttoria su Fabio Fazio fa finire naturalmente il presidente sui giornali, se ne parla. A questo serve la commissione di vigilanza RAI. Poi queste istruttorie portano al nulla più totale, le persone vengono sentite, ognuno ribadisce la sua autonomia, le sue cose, si dicono delle stupidaggini sesquipedali e tutto finisce lì. Ripeto, a questo serve la commissione di vigilanza RAI. E poi un ascoltatore mi fa notare, insomma, il governatore dell'Illinois è finito in manette, accusato di frode e corruzione, è stato incastrato da alcune intercettazioni telefoniche degli inquirenti, e però non ci sono le discussioni che ci sono in Italia su New York Times oppure su altri organi di stampa, cioè riprende lo scontro tra magistratura e politica, toghe politicizzate, eccetera eccetera. Rispondo subito: non c'è evidentemente il sistema che c'è in Italia. Se quel procuratore che oggi accusa il governatore dell'Illinois sbaglia, poi va a casa, cioè non è che diventa procuratore generale alla Cassazione e fa carriera. Questa è una grande differenza. Andiamo a sentire gli ascoltatori. Daniele da Modena, buonasera. Non c'è, andiamo a Udine da Fabio. Buonasera dottor Cruciani. Eccoci, dica. Buonasera. Ma niente, mi viene da sorridere a pensare all'ascoltatore che ha detto che non era una trasmissione frizzante. Mi pare che gli argomenti sono a sufficienza. Quest'ultimo di cui parlava, del senatore Illinois, mi fa agganciare a quello invece di cui volevo parlare. E cioè è molto semplice, qui parliamo di finanziamento pubblico ai partiti. La legge che hanno fatto poco prima della fine dell'ultima legislatura, che chi è fuori dal Parlamento continua a percepire questo finanziamento. Oggi siamo in un momento in cui chiunque, dal più piccolo dei cittadini, dal più semplice dei cittadini al più importante dei nostri dirigenti, chiamiamoli così, devono fare attenzione al proprio portafoglio, al portafoglio dello Stato. Perché nessuno parla di questo? Perché non andiamo a recuperare tutti quei milioni di euro che continuiamo a pagare, per esempio, a Rifondazione Comunista, per esempio alla destra, per essere bipartisan? Questo nessuno ne parla, hanno provato le Iene a parlarne, sono stati praticamente cancellati senza che nessuno abbia preso questo argomento come spunto per poter parlare di questo argomento. Insomma. Sì Fabio, guardi, adesso le Iene non mi pare che siano state cancellate, anzi continuano a imperversare ogni settimana tranquillamente su una delle reti Mediaset, non è questo il punto. Lei però ha perfettamente ragione, perché quello del finanziamento pubblico ai partiti è il vero scandalo della politica oggi in Italia, e vedrà che la festa continua, perché poi ci sono le elezioni europee fra poco e la legge italiana prevede anche lì un rimborso e ritornerà nei piccoli partiti e insomma ricomincia la giostra. Partiti che adesso non sono più presenti in Parlamento, come ricordava lei, per una leggina approvata qualche anno fa, continueranno a prendere per altri 3 anni, doveva essere la fine, gli ultimi anni della legislatura passata, il finanziamento pubblico. Anche questa mattina qualcuno ricordava in una trasmissione il fatto che DS e Margherita, per esempio, che non esistono più e sono all'interno del Partito Democratico, continuano a prendere separatamente i soldi del finanziamento pubblico, e nessuno parla di queste cose, perché poi c'è una sorta di accordo generale per lasciare tutto com'è adesso. Abbiamo ripreso con Daniele da Modena, eccolo qui. Daniele. Buonasera. Dica. Senta, io sono un elettore del Partito Democratico e sì, sono favorevolissimo alle campagne giornalistiche, o meglio alle indagini giornalistiche che ha fatto Repubblica e che fa l'Espresso, eccetera. Credo anche che sia un dovere dell'informazione, sarebbe bene anzi che anche i giornalisti di destra imparassero anche un po' a farlo con la loro parte. Perché esistono giornalisti di destra e giornalisti di sinistra, così lei divide il mondo in queste due categorie. No, ci mancherebbe altro, ma scherza. I giornali, lei dice i giornali dell'area di destra. Lei lo considera un uomo di centro moderato, o Ferrara lo considera un uomo... No, ma era per dire... assolutamente imparziale. Era per dire... Era per dire che le categorie destra e sinistra sono sbagliate. Comunque, insomma... Guardi, vediamo. Però il punto secondo me invece è che davvero c'è un problema mediatico, nel senso che sul nulla, perché per adesso mi pare di capire che per esempio questi due sindaci sono assolutamente neanche indagati, sì, e ci sta montando 5 giorni di trasmissione. Ah, io? Che vuol dire? Io che li difendo, io che li difendo. Ma li difende, ma ne parla, sai come si suol dire? Ah beh, certo. Cioè... purché se ne parli, allora, 5 giorni. E dunque parlandone li attacco, secondo lei? Lei, guardi, costruendo una trasmissione, un pochino di queste cose, un ciccinino ne capisco anch'io, sì, parlando continuamente del fatto che ci sono un problema morale all'interno del Partito Democratico, che io sono d'accordissimo vada non solo investigato, ma investigato. Voglio sapere le notizie nuove, non parlare 5 giorni della stessa notizia, perché nel frattempo sì, ci sono anche altre notizie, come la notizia sul fatto, lei è un laico, no? Come insegna il nostro eroe positivo Capezzone, nel momento nel quale vengono tolti i soldi alla scuola pubblica e vengono invece ridati assolutamente alla scuola privata, cioè cattolica, magari lei potrebbe anche avere un moto per cui dire ma questa sera la dedico a questo. Invece 5 giorni di ripetute dove lei... Guardi, lei ascolta male questa trasmissione, non è un delitto, per carità, perché no, ognuno può ascoltare quanto vuole, mezz'ora, 10 minuti, 5 minuti, nulla, diciamo. non è obbligatorio. Guardi che la cosa di cui lei sta parlando, cioè il finanziamento eccetera, è stato l'oggetto di una trasmissione di ospiti la scorsa settimana, ne ho parlato anche ieri. Guardi, non so di cosa sta parlando. Ho la sensazione che lei faccia un dosaggio ampio e saggio della situazione, ma credo onestamente con dei dosaggi un po' sproporzionati. Le ripeto, sì. Parlare 5 giorni della stessa notizia di 5 giorni fa vuol dire semplicemente, poi dicendo sempre io sono garantista eccetera eccetera, per carità, ma parlare 5 giorni vuol dire che è un tam tam sulla notizia che è venuta 5 giorni fa. Sul problema del Partito Democratico, che è un problema serio, sulla corruzione, su eventuali, allora è chiaro che l'unico strumento è quello democratico, che è quello strumento, come le primarie fatte bene eccetera, che lei spesso volete ha definito un problema del Partito Democratico. No, perché la democrazia vera, così come anche la vigilanza sulla RAI, è la possibilità di essere informati, è la possibilità di scegliere realmente le cose, non A o B, dimmi solo questo poi ci pensiamo noi, A o B, Berlusconi o Beltrone, dimmi solo questo, poi salute e pace. E no, la democrazia è un po' più complessa, è anche molto nell'informazione, e l'informazione, il problema è che Villari adesso comincia a fare a investigare o a chiedere queste cose su Fazio eccetera, che è naturalmente anche quello è un senatore del Partito Democratico e per carità è un problema del Partito Democratico, peccato che l'abbiano eletto Berlusconi e soci. Il problema vero è che probabilmente il problema morale è che di solito non si regge la parte, non si cerca sempre di corrompere qualcuno dell'altra parte, no? Questo è un problema morale, secondo me. Non credo sia una cosa così campatenaria pensare che il senatore De Gregori dell'altra legislatura sia un problema morale, no? Adesso potremmo anche immaginarci che abbia avuto un risveglio religioso che l'abbia portato a cambiare idea al volo, ma mi pare che ci siano dei problemi morali. E che fatto seriamente e investigato, sono d'accordissimo, Repubblica e l'Espresso fanno benissimo, che l'informazione faccia il cane da guardia, ma non da costruirci delle campagne un po' strumentalizzanti. Non lo so, sì, lo dica, ripete sempre la stessa cosa. D'accordo, la ringrazio. Dicendo che sia contro. D'accordo, va bene? Grazie. Non sto facendo nessuna campagna, lei non sa di cosa sta parlando, però va bene lo stesso. 800 24 00 24, non sa di cosa sta parlando con riferimento a questa vicenda della questione morale, che è talmente passata di moda che questa sera ci saranno praticamente 2 trasmissioni televisive che se ne occupano. Poi può essere più o meno interessante a seconda dei gusti. Andiamo a Treviso da Leonardo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Ah, mi avvertono che lei è presidente della provincia di Treviso, peraltro. Esatto, entro nell'agone della discussione delle province sì, province no, ma io che ascolto sempre volentieri devo dire che fa molto bene questa trasmissione, devo fargli i complimenti. Dall'altra parte ho seguito anche la settimana scorsa, quando ho tempo ovviamente spostandomi da un punto all'altro, la vostra trasmissione. Va abolita questa provincia, dunque anche quella di Treviso, oppure serve? Ma io credo bisogna fare un'azione abbastanza scientifica, nel senso fare una discussione. Io condivido nell'eliminare le province sotto i 300.000 abitanti, dove ci sono le aree metropolitane, una sovrapposizione con le aree metropolitane. Dall'altra parte credo bisognerebbe anche conoscere numeri, dati e quant'altro. Io per esempio, noi gestiamo 1.300 km di strade provinciali, 140 scuole secondarie. Abbiamo una delle migliori senz'altro formazioni e orientamento per i giovani, 100.000 partite. Ma non sono cose che potrebbe fare attraverso naturalmente un processo che non può essere domani, ma che può durare un anno. Non sono cose che potrebbe fare la regione, non si potrebbero dare ai comuni più poteri. Insomma, è vero o no che ci sarebbero risparmi, come oggi scrive Oscar Giannino sul Libero, di 6 miliardi con l'abolizione delle province da subito? Ma io non ci sto su questo, perché si toglie un po' di democrazia. La Regione del Veneto sta già facendo, il Presidente ha nominato delle agenzie regionali, nel quale nomina lui personalmente il Presidente o l'amministratore delegato di queste agenzie, che gestiscono in parte delle competenze che sono state prelevate anche dai comuni. Credo che in questo contesto si toglie una parte di democrazia, perché il cittadino prima di tutto non ha la stessa trasparenza che un'agenzia rispetto a un ente pubblico, essendo anche noi front office, e per cui noi rispondiamo direttamente, io rispondo ai miei elettori, avendo avuto al primo turno elettorale il 58% di consensi, e per cui si limita la democrazia in questo paese, perché l'agenzia si crea una nomenclatura dove il presidente della regione di fatto nomina delle persone che rispondono solo a lui stesso senza rispondere ai cittadini. Questo sì, però scusi presidente, io per carità non metto in dubbio che la sua provincia o altre province naturalmente siano efficienti, che facciano delle cose che servono eccetera. Qui il problema è un altro: si può riorganizzare tutta la macchina burocratica, l'organizzazione dello Stato, certo, in modo da risparmiare dei soldi oppure no? E uno di questi modi, se ne parla da 130 anni, uno di questi modi può essere quello dell'abolizione delle province. La Lega è fortemente contraria, perché? Forse perché amministra alcune province, sono gli unici organi che amministra direttamente con dei presidenti? No, ma guardi, qui a Treviso io sono un amministratore della Lega Nord. La Lega Nord ha 5 province in tutta Italia, su 103 province non sono queste. È una concezione sull'aspetto della democrazia, l'area vasta, se non c'è un ente che riesce a distribuire e a governare, mediare, diventa... Io le do un dato: Treviso, 95 comuni, abbiamo 1074 zone industriali, perché la regione non ha trasferito le deleghe sull'urbanistica, tratta direttamente coi comuni, e non avendo una visione d'area, ovviamente ha creato questa situazione: 1074 zone industriali su 95 comuni, mancanza di una pianificazione d'area. Credo che questo sia in dubbio. Va bene presidente, io volevo fare un altro punto, però velocemente l'ho chiamata perché il discorso che parlavate del finanziamento ai partiti pubblici, i partiti politici, ma e perché non parliamo anche del libro che sta facendo tutta questa campagna sul finanziamento di quasi 8 milioni di euro che lui riceve ogni anno di soldi pubblici e poi prende delle posizioni? Anche questo io credo che sarebbe il finanziamento, lei dice, della stampa, insomma dell'editoria, esatto, in generale. Esatto. Sì, però qui bisogna decidersi, la ringrazio di questo intervento, presidente Muraro, su cosa deve fare lo Stato, li deve dare questi soldi oppure no, quali sono i limiti di un intervento dello Stato, perché lo Stato dà soldi ad un sacco di enti, organismi eccetera. Sulla stampa cosa deve fare? Zero oppure qualcosa che riguarda gli abbonamenti? Quali sono i paletti? Sicuramente dei paletti ci vogliono, magari più decisi rispetto a quelli che ci sono adesso, più forti. Emanuele Macaluso, buonasera. Buonasera. Emanuele Macaluso è direttore della regione del socialismo. Insomma, Macaluso, si parla da qualche giorno, forse a sproposito, di questione morale all'interno del Partito Democratico. Io devo dire la verità, questa parola che viene ripetuta spesso, l'ho detto anche Luciano Violante in un intervento durante la legislazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera, è una parola secondo me sbagliata. Come era sbagliata prima, secondo me è sbagliata adesso, perché sembra appunto coinvolgere tutto un partito in un rapporto perverso con l'istituzione, con l'imprenditoria e soprattutto con l'imprenditoria locale in questo caso. Però ho l'impressione che il Partito Democratico abbia le armi spuntate da questo punto di vista, avendo usato l'arma della giustizia nei confronti dei suoi avversari politici molto frequentemente. Beh, io penso appunto che la sinistra ha fatto, il Partito Democratico fece degli errori negli anni 93-94, non a denunciare il fatto che la corruzione c'era, perché la corruzione, il fatto che ci sono state poi delle condanne, però il modo come fu fatta, come coinvolgendo un sistema, partiti, tutti messi, i partiti alla maggioranza, tutti condannati e coinvolti, quindi e dare alla magistratura il ruolo come doveva bonificare la politica, non che la politica deve bonificare se stessa, quello è stato l'errore più grave. L'errore più grave è quello di affidare alla magistratura un compito economico, la magistratura deve perseguire reati. La rigenerazione politica, se di rigenerazione si tratta, deve farla la politica, e se non è capace di farla, allora sì, bisogna criticare la politica, mi criticava fortemente, ma come politica, che sono incapaci di rimediare a problemi che sono squisitamente politici. Senta, secondo lei il sindaco di Firenze ha sbagliato a incatenarsi davanti a Repubblica? Prego? Il sindaco di Firenze, secondo lei, ha sbagliato a incatenarsi davanti a Repubblica? Ma io penso che le forme di protesta possono essere tante. Io non l'avrei fatto, cioè io penso che un sindaco come lui, che è persona per bene, io lo conosco molto molto bene anche, non ha bisogno. Io capisco che è un disoccupato, si mette sul cornicione o si incatena davanti, perché non ha altri mezzi di comunicazione, ma un sindaco io penso che abbia altri mezzi per comunicare e dire alla Repubblica quello che poi ha detto, le querele che ha fatto, eccetera. Quindi io da questo punto di vista non sono d'accordo. Certe forme di protesta che sono comprensibili in chi non ha purtroppo altri mezzi di comunicazione e di protesta, non mi pare che siano adeguate per chi è sindaco di una grande città che ha mezzi, la possibilità di comunicare. Certo. Senta, Rino Formica oggi in alcune interviste, ex ministro socialista, lei la conosce bene, dice oggi proviamo una grande soddisfazione di quelle che stiamo vivendo, non potremmo più averne da viventi addirittura, perché nel 92 Violante e Veltroni, davanti a quello che succedeva, alle inchieste, ai magistrati, il Partito Socialista, tacevano, anzi non solo tacevano, io credo che il mio carissimo amico lì non sbaglia nel dire che allora Violante e Veltroni tacevano, perché purtroppo non tacevano, dicevano cose anche sbagliate, ma io non direi mai sono soddisfatto di una cosa sbagliata fatta da altri, come rifarla oggi. No, io sì, penso che sia un errore questo. Non si può essere lieti di errori che fanno altri. Senta, questa famosa inchiesta dell'Espresso, io l'ho letta con attenzione, non ci sono i virgolettati delle intercettazioni telefoniche, però certamente ci sono anche qui, ancora una volta, inchieste in corso con due assessori e altre persone che hanno ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, in cui vengono... Dove questo? Sull'Espresso, in cui vengono sostanzialmente riportate alcune intercettazioni telefoniche su questo famoso parco, su questo famoso stadio. Credo che Domenici se la sia presa soprattutto con questo e con alcune illazioni su un suo presunto coinvolgimento, ancora una volta riferite ad alcune intercettazioni. È sempre la solita solfa, diciamo la verità, è sempre la solita storia. Sì, è sempre la solita storia, e lì la responsabilità è sempre dei magistrati. Però i magistrati dovrebbero, a meno che non sono, siccome ancora non c'è un processo e quindi le intercettazioni dovrebbero essere, se ci sono, assolutamente segretate, perché altrimenti vanno in mano agli avvocati. Ma lo diciamo da anni, Macaluso, e poi non avviene mai, lo diciamo, esatto, da anni, non c'è un provvedimento, mai. Non c'è mai un provvedimento. Non avviene mai perché non c'è non si definiscono mai le responsabilità. Perché io ho fatto una polemica proprio recentemente sul Mattino di Napoli, sì, con la Procura di Napoli, la quale ha detto noi sulle intercettazioni abbiamo aperto dei fascicoli, e io gli ho detto ma scusate, questi fascicoli che fine hanno fatto? Perché se non basta aprire un'inchiesta, se poi le inchieste finiscono come finiscono, quindi non mi basta dire abbiamo aperto un fascicolo e il fascicolo va a morire. Non si è mai trovato un responsabile di queste. Quindi io penso che qui la responsabilità è della magistratura, e a mio avviso bisognerebbe aprire delle inchieste nei confronti dei magistrati che non operano, per individuare chi è che viola la legge, perché questa è una violazione della della legge. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe, a mio avviso, intervenire. La ringrazio. 1954 800 24 00 24. Veltroni dice che il governo è inadeguato a affrontare la grave crisi sociale in atto, e vabbè, questa è una posizione politica di Veltroni che sta dicendo da diverso tempo, però aggiunge una cosa: Berlusconi ha inoltre una ricchezza spropositata, cioè troppo ricco, una ricchezza spropositata che gli impedisce di vedere le vere condizioni della gente. Berlusconi troppo ricco per capire la crisi, questo è il titolo dell'Ansa. Andrea dalla provincia di Livorno, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo intervenire relativamente alla polemica fatta da Grillini e dall'altro Arci Gay. Sì, su Brokeback Mountain. Sì, sì, non ho visto il film, no, quindi non voglio entrare nel merito specifico. Male, perché è un bellissimo film. Purtroppo a volte preferisco stare come i miei due bambini e leggere loro una storia. No, ma si può vedere in DVD, si può vedere... No, certo. Non è uscito ieri. Comunque provvederò. Dicevo, mi sembra ridicola, quantomeno, questa presa di posizione del voler far delle vittime ad ogni costo, qualsiasi cosa mi riferisco a, io non sono gay, sono eterosessuale, cioè non mi scandalizzo se viene censurata una scena di sesso fra un uomo e una donna, ripeto, non mi sembra la fine del mondo, cioè è una scelta editoriale della televisione, non vedo perché doversi scandalizzare e protestare. Io, magari estremizzando, se so che in un film c'è un bacio fra due uomini, io a mio figlio preferisco non farglielo vedere. Però è una scelta mia, ripeto, non pensino loro di avere la verità in mano. Sì, Andrea, guardi, sulle reazioni si può discutere, perché c'è una sorta di, naturalmente, da questo punto di vista, di ripetitività incredibile. Cioè, ogni volta che escono queste cose si mette in moto una macchina, l'Arci Gay, quello, le proteste, la censura, l'Italia, il Vaticano, insomma, quello che volete. Era in seconda serata il film, era mandato in seconda serata, ma ancora più ridicola la giustificazione della Rai, secondo la quale ci sarebbe stata una censura da parte di un tale personaggio che è nella commissione censura, cioè dei tagli fatti e loro poi non hanno controllato perché è arrivata una versione vecchia del film, quella censurata e non quella integrale, insomma, è la Rai, con centinaia e centinaia, anzi migliaia di dipendenti. Eppure non si riesce a decidere che un film come quello, che ha vinto Oscar, è stato premiato, non va in versione integrale. Riccardo da Catania, buonasera. Buonasera dottore, grazie per aver chiamato. Buonasera, dica pure. Niente, io volevo intervenire su questa polemica relativa al sindaco di Firenze, perché non ho ben capito la materia di cui si tratta, cioè la reazione del sindaco di Firenze mi sembra sinceramente plateale, ma ormai in Italia, diciamo, chi non fa cose che attirino un'attenzione spropositata sembra che sia fuori gioco, quindi sono incatenati. Ma in pratica si sta montando una polemica alla fine su niente, no? Perché non c'è. Beh, c'è un'inchiesta che coinvolge, come no? No, naturalmente sì, non c'è un'inchiesta che coinvolge Domenici che... direttamente, però c'è un'inchiesta che coinvolge alcuni amministratori e altri personaggi. Sì, ma lui sarebbe coinvolto per una telefonata che tutto sommato non vedo, cioè è stato coinvolto, diciamo, dagli articolisti per due telefonate che, sì, e poi per un incontro sommato, e poi per un incontro che secondo me, insomma, è una cosa assolutamente normale tra il presidente della Fiorentina, la squadra di calcio della città di quel sindaco Domenici, e il proprietario di quell'area, insomma, ma qua in Italia veramente ormai abbiamo perso il senso veramente della misura. Lui, ripeto, ha avuto una reazione che ha voluto fare plateale, però insomma non si può arrivare a questo punto, perché se no, insomma, cioè, nessuna persona si può permettere di amministrare niente, perché qualsiasi gesto che fa diventa motivo di crearci di sospetto, perché già stiamo costruendo delle cose colossali, insomma, sì, che Domenici sarebbe contrario al verde in quel parco, e dunque ci sono anche alcune intercettazioni con alcune sue frasi contro quel parco, ci sarebbero, insomma, tutte cose incredibili che non dovrebbero fare parte di questa fase dell'inchiesta. TG5. Non si fermano le violenze in Grecia, scontri ad Atene ai funerali del giovane ucciso dalla polizia, lancio di lacrimogeni davanti al cimitero, guerriglia urbana anche in altre città. Scontro tra giudici, tregua tra le procure di Salerno e Catanzaro, Fini e Schifani, la riforma della giustizia sia condivisa, prime prove di dialogo anche sul federalismo. In Irlanda trovate tracce di diossina anche in alcuni bovini, il ministro Zaia al TG5, nessun allarme, controlli a tappeto e carni certificate. Dopo tanti aumenti, a dicembre cala il prezzo della pasta e nel periodo natalizio si moltiplicano le offerte speciali. Tre ultras del Catanzaro non potevano entrare allo stadio e allora lo hanno sorvolato in deltaplano. Levatesi in volo, hanno lanciato volantini e una sciarpa su quelli del Cosenza. Troppi cuccioli regalati a Natale e abbandonati a Ferragosto, 100.000 ogni anno. Campagna per l'adozione dei trovatelli in canile e attenzione agli animali esotici, sono inadatti ai bambini. Bene, bene, andiamo anche a sentire i titoli del TG1 per vedere se c'è qualche differenza. Non credo, perché più o meno le notizie di oggi riportate dai TG sono queste. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 60 anni, un bilancio di luce e ombre per la carta che unifica il mondo. Quarta giornata di guerriglia in Grecia, studenti e polizia si scontrano al cimitero durante i funerali del 15enne ucciso sabato. Caso De Magistris, intesa tra le procure di Salerno e Catanzaro, soddisfatto Napolitano. Alfano, non vogliamo tagliare le unghie ai PM. In Irlanda diossina anche nella carne bovina, per le autorità i nostri prodotti sono sicuri, ma ci sono sequestri di carne suina. Scandalo a Chicago, arrestato il governatore dell'Illinois, chiedeva mazzette per assegnare il posto da senatore lasciato da Obama. Il mouse del computer a 40 anni, l'inventore parla al TG1 e immagina il futuro della società digitale. Bene, bene, diversi ascoltatori in linea, iniziamo con Napoli. Marco, buonasera. Buonasera a voi, io la chiamo semplicemente per dire che in coda a quello che ha detto qualche ascoltatore, mi piacerebbe che il governo approfittasse del momento almeno delicato sociale, economico, mondiale, nazionale, eccetera, per prendere dei provvedimenti che in altre occasioni non avrebbe la possibilità di prendere. Per esempio, invece di occuparsi della, non dico dell'Alitalia di turno, ma dell'inchiesta di turno fatta o non fatta o che si deve fare, per esempio domani leggessimo sui giornali provvedimento del governo, si invertono le aliquote dalle rendite finanziarie a rispetto a quelle applicate alle imprese. Per esempio, invece di pagare circa il 50% del proprio reddito prodotto delle imprese e tassare al 12,50% le rendite finanziarie, dato il momento difficile, il governo si vede costretto a utilizzare provvedimenti eccezionali, oppure, dato quello che è successo con la detrazione al 55%, che Tremonti si era detto scandalizzato, però sembrava che avesse messo in moto lavoro, fatture, eccetera, eccetera. Da domani si può detrarre tutto per i cittadini e per le imprese, perché comunque alla fine anche chi lavora, no, soprattutto tutti, il proprio denaro lo fanno uscire dalla... Marco, lei immagina dei provvedimenti eccezionali di questo tipo. Io voglio riprendere alcuni interventi che ho letto nei giorni scorsi, di cui abbiamo parlato la settimana passata, cioè forse sarebbe il momento, quale momento migliore per esempio che tornare a occuparsi del dossier delle pensioni, perché solamente intervenendo sulle pensioni si risparmiano un sacco di soldi che poi si possono investire nelle infrastrutture, eccetera, eccetera. La ringrazio. Gianluca da Parma, buonasera. Buonasera, io chiamo per la questione delle province. Sì. Io sono favorevole al mantenimento delle province, perché qua almeno nella provincia di Parma sono fatte diverse cose per la formazione professionale, viabilità, smaltimento rifiuti, finanziamenti a energie alternative in sinergia con i comuni. C'è un discreto controllo, diciamo così, da parte delle forze sociali e anche della stampa, un'interazione con queste amministrazioni. Si spende un po' tanto magari per... Dica? No, la sento. Lei dice che quello che fa la provincia di Parma... almeno nell'Emilia occidentale ci siamo, ecco, sostegno alle piccole imprese. Sì, no, Gianluca, ma io non metto in discussione il fatto che molte province fanno un lavoro importante, sicuramente in maniera onesta... e che i compiti che sono assegnati alle province vengano svolti in maniera efficiente, ma io questo qua non lo metto in dubbio. Il punto è un altro, è che le stesse cose in maniera sempre efficiente possono essere fatte da altri enti senza il peso burocratico delle province e dunque risparmiando. Questo è il punto. La ringrazio. Alessandro da Vicenza, poi la pubblicità. Alessandro. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera a lei. Io intanto parlo della questione morale e etica del PD, nonostante quell'ascoltatore diceva che da 5 giorni se ne parla, e queste anime belle pie della sinistra, evidentemente vicina o quantomeno inserita al PD, si dimenticano che 10 anni fa o 12 anni fa, dal 90 al 92, no, furono 5 giorni i giorni in cui si parlò della famosa questione morale di Tangentopoli, ma furono addirittura anni, quindi se se ne parla per 5 giorni adesso è solo un piccolo risarcimento a chi allora ha subito l'onta di una scomparsa, una classe politica che, come ricordava Macaluso, è stata fatta fuori anche in maniera probabilmente non giusta, perché si colpirono i partiti anziché le persone. Ecco, però perché vedere quello che sta accadendo adesso, che riguarda alcune amministrazioni eccetera, come una sorta di vendetta o anche vedendo quello che sta accadendo adesso come con malcelata, diciamo, soddisfazione. No, io non dico questo, però secondo me non si può sottovalutare un fatto, che si tratta del maggior partito di opposizione, del secondo partito in Italia, e che i casi sono quantomeno frequenti e vanno in gran parte dell'Italia, e questo sta a significare, secondo me, ma lo dico senza nessun spirito di vendetta, perché le cose non c'è mai soddisfazione, soprattutto perché in ogni caso coinvolgono persone che, se hanno sbagliato, non ci deve essere la soddisfazione, come diceva, mi pare, Formica oggi in quell'articolo, e giustamente Macaluso, mi pare, dicesse che non è bello provare soddisfazione per le sventure altrui. Le sventure altrui, perché riguardano persone, le persone, anche se hanno sbagliato, hanno compiuto, sono sempre delle persone, quindi non bisogna mai gioire. Però il problema è questo partito è nato in gran parte dal Partito Comunista, poi DS, ed era il partito che non ha subito nulla per quanto riguarda la questione morale, pur avendone probabilmente colpe tanto quanto gli altri. Ho capito, Alessandro. Ma mi perdoni, e io le dico, siccome ho una certa età e mi ricordo e ho seguito anche quegli anni brutti, pur non avendo mai fatto politica, ma lo seguivo da cittadino, ma mi ricordo soprattutto quello che il Partito Comunista aveva di finanziamento pubblico, come gli altri partiti, illecito probabilmente come gli altri partiti, a cui si aggiungeva il finanziamento che gli arrivò per anni, per decenni, dall'Unione Sovietica, un paese che era nemico. Dunque, una sorta di quello che sta avvenendo adesso, secondo lei, è quasi una sorta di nemesi storica, insomma, per un partito che pensava di essere il migliore. Non hanno fatto quella pulizia che era necessaria, come l'hanno fatto gli altri partiti, addirittura loro sono scomparsi, anche se poi molti sono entrati nel partito di Forza Italia. Beh, in realtà non è così, c'è stata una divisione tra i vecchi dirigenti o militanti del Partito Socialista, chi ha votato, ha militato, è stato eletto da una parte, e chi è stato eletto e ha votato per l'altra parte politica. Andiamo a Forlì da Giuseppe, buonasera. Buonasera dottore, buonasera a tutti gli ascoltatori. Poi andiamo a Napoli, ad Antonio. Giuseppe, dica. Senta, io credo che ci siano 3 argomenti molto brevi da prendere in considerazione. Sì. Uno è quello della questione morale, tra virgolette. Cioè, se noi abbiamo perso, noi, quando dico noi intendo cominciando da me, abbiamo perso tutti i valori, quelli positivi, e quelli positivi li capiamo, sappiamo tutti quelli che sono, non c'è da meravigliarsi di niente. Secondo argomento, la RAI, Villari, come si chiama, Villari, no? Si sta occupando di Fazio, potrebbe occuparsi anche del film di ieri sera, forse sarebbe una cosa un pochettino più. Speriamo di no, speriamo di no. Speriamo, sì, ma speriamo che la Rai diventi venga privatizzata. Ah, ma non quello che spero anch'io. Non alle calende greche come l'Italia, no? Terzo argomento è quella dell'Irlanda, no? Della diossina. Sì. La carne alla diossina è da mesi e mesi e mesi che arriva, l'hanno scoperto adesso, come prima c'era la mucca pazza, come poi c'è stata l'aviaria, cioè sono tutte cose che servono solo per poter riempire un po' di giornali, ma non me la prendo con i giornali, me la prendo con il vice ministro dell'agricoltura, una signora Martini, mi sembra si chiami. Sì, che in realtà non è, credo non sia vice ministro dell'agricoltura, ma la salute. No, sottosegretario, insomma, sì, di qualche cosa, che non sa. Non si rende conto che lo zampone può essere stato fatto insaccato 3 mesi fa, ma un cotechino, se non lo sa, bisogna che si impari, si fa nel giro di 3 giorni e poi bisogna mangiarlo. Quindi non è una questione, è solo una questione di se io vado a comprare un cotechino adesso ed è stato fatto con la carne irlandese, non di 3 mesi fa, ma è stato fatto con la carne irlandese di 3 giorni fa, il mio cotechino, se ha la diossina, ce l'ha. Non deve rassicurare, perché sono. Beh, no, ma le rassicurazioni, Giuseppe, non da parte dei sottosegretari o dei ministri, ma da parte dei tecnici, sono sul fatto che comunque, anche se uno avesse ingerito una quantità di minima come quella che è contenuta in una porzione singola di carne contaminata, i rischi sono assolutamente inesistenti. Questo è quello che dicono tutti, naturalmente un'altra cosa, tutti i tecnici, tutti gli esperti, un'altra cosa è un mangiare continuamente un certo tipo di carne. La ringrazio. Armando, provincia di Ascoli Piceno, che in realtà mi segnalano il sindaco di Maltignano, che è un paese in provincia di Ascoli. Quanti abitanti, Armando? 2.500 circa. 2.500. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Senta, grazie per... Prego, prego. No, le voglio subito chiedere una cosa, entriamo nel vivo. Provincia di Ascoli Piceno, c'è un'altra provincia che entrerà in funzione tra qualche mese, almeno sembra, che è la provincia di Fermo. Sì. Lei dove sarà? Nella provincia di Fermo o nella provincia di Ascoli alla fine? No, provincia di Ascoli, siamo al confine con l'Abruzzo. Ha sfiorato, non rischia nulla dunque. no, veramente noi rischiamo perché la divisione della provincia di Ascoli sarà un dramma per l'intero territorio, soprattutto perché? Per la parte perché rimarrà, perché questa è una provincia innanzitutto specifica, la provincia di Ascoli era composta da 365.000 abitanti, sarà divisa in due, la restante provincia di Ascoli rimarrà con 200.000 e la nuova provincia di Fermo con 165.000. E dov'è la tragedia? La tragedia è che questa divisione costerà alla nuova provincia di Ascoli 16 milioni di euro. La prima tragedia. Cioè costerà, lei dice, dal punto di vista organizzativo, cioè trasformare... Sì. Trasformare, organizzare la nuova provincia di Fermo, sì, costerà alla vecchia provincia di Ascoli circa 16 milioni di euro. Roba per i trasferimenti coatti, quindi non solo trasferimenti, sì, volontari. E soprattutto perché questa è stata una divisione, credo l'unico caso, di divisione unilaterale, quindi non con il consenso della vecchia provincia di Ascoli Piceno, tanto che tre sindaci, tra cui io e i colleghi di Polignano e Castrofusione, abbiamo organizzato una raccolta di firme proprio per convincere il presidente Berlusconi, a cui abbiamo consegnato questa petizione popolare il 22 novembre scorso a Teramo, nella presentazione del, sì, nuovo governatore in pecto, che pare, della regione Abruzzo, e abbiamo manifestato tutto il nostro disappunto per questa divisione nata con delibere di consiglio comunale, lei pensi, del 1989, quando ancora non c'era neppure internet. Senta, perché siete così contrari alla istituzione della provincia di Fermo? Solamente per una questione, come dire, di territorio e dunque di minor peso della provincia di Ascoli, oppure per una questione di principio? Beh, allora, per tutte e due le cose, una questione di principio, perché soprattutto in questa fase, per una provincia nata con presupposti del 1989, realizzarla nel 2004 mi sembra inopportuno. Seconda questione, un altro motivo di principio, è che in questa fase una nuova provincia sotto la soglia minima di 200.000 abitanti prevista dal testo unico degli enti locali è una provincia, secondo me, inopportuna, visto che costerà 100 milioni di euro per creare a distanza di 50 chilometri due prefetture, due archivi di Stato, due motorizzazioni, due consigli provinciali, e chi più ne ha più ne metta in questa fase di taglio alle spese, mi sembra. Senta, com'è possibile che c'è un minimo previsto di 200.000 abitanti, però se ne crea una di 165.000? È stata fatta una deroga? Come? Perché per Fermo fu creata una deroga durante l'iter legislativo. Da 200.000 comparve improvvisamente di norma 200.000, ma di norma 200.000 serviva soprattutto a quelle province che nascono vicino all'area metropolitana, che ovviamente possono crearsi di 200.000 per non essere soffocate dall'area metropolitana, ma in un contesto di 1,5 milioni di abitanti, tanto fa la Regione Marche, creare tre province più una, mi sembra quantomeno assurdo. Lei pensi che due volte il ragionier Monocchio ha detto no alle tre nuove province, ricordo, Monza, Trani, Barletta ed Andria, e Fermo per due volte, eppure hanno superato questa ostacolo. Senta, teniamoci in contatto, però Armando, la devo lasciare adesso perché ho un ospite, teniamoci in contatto perché lei mi deve dire a questo punto, me lo dirà magari domani, la invito di nuovo a contattarci domani, mi deve dire chi c'è dietro il grande sponsor della provincia di Fermo. Però torniamo a parlare della cosiddetta, una espressione orrenda, questione morale, con Gianni De Michelis, che saluto, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci, che alcune interviste uscite oggi di Rino Formica sui giornali, devo dire quella di Isabelli Fioretti, meravigliosa, sulla stampa, ci hanno fatto tornare un po' indietro nel tempo, De Michelis. Volevo sapere... Hanno fatto tornare anche me, naturalmente. Naturalmente anche lei, nel tempo, poi non è che sono passati 50 anni. Sono passati 20 anni quasi. 20 anni quasi. Ora, lei prova la stessa soddisfazione di Formica? Magari è stato interpretato male, perché sappiamo i giornali... La soddisfazione è in questo senso, nel senso che, come si può dire, dopo aver attraversato un periodo in cui noi stessi, la nostra storia, quello di buono e di cattivo che abbiamo fatto, era stato tutto liquidato come frutto di malaffare e così via, oggi, come si può dire, quello che sta avvenendo in questi giorni rimette tutto in una prospettiva più corretta e più adeguata. E come ho già detto, io non gioisco, perché mi preoccupa il fatto che queste vicende di questi giorni dimostrano solo una cosa, che la politica è ancora più debole di quanto non si fosse dimostrata negli anni di Mani Pulite. E tutto questo in un momento in cui il paese ha di fronte una crisi molto più drammatica di quella pure che dovette attraversare alla fine della guerra fredda, tutto questo non è bene per gli italiani in generale, soprattutto per le giovani generazioni. Senta, lei un gesto come quello del sindaco di Firenze l'avrebbe fatto, oppure una cosa esagerata che la gente non capisce, incatenarsi davanti a un giornale per come viene, per alcuni articoli? No, io lo capisco, ma ai tempi nostri non ci sarebbe stato nemmeno permesso, ci avrebbero preso vi avrebbero fucilato. Sì, ricordiamoci le monetine a Rafael, quell'episodio orribile, orrendo, che però ha visto, come si può dire, la partecipazione, come si può dire, di quelli che oggi sono rappresentati da Dominici, diciamo così. Quindi quella volta, se io avessi fatto un gesto del genere, e ripeto, per ragioni che capisco di carattere psicologico, noi saremmo stati probabilmente presi a sassate, diciamo così. Io l'ho detto anche questo in un'intervista in questi giorni. Dominici ha espresso in modo forse esagerato la reazione a quella che è la punizione peggiore che tocca un politico, peraltro neppure accusato di fatti precisi, cioè la character assassination, la distruzione dell'immagine, cioè l'uso, l'abuso delle intercettazioni, delle allusioni, delle cose distruggono l'unico bene che nessuno potrà mai ridare a un politico, che è quello della sua credibilità, della sua... Detto questo, De Michelis, secondo lei esiste a livello locale un problema che riguarda soprattutto a Firenze e Napoli l'esistenza di rapporti molto stretti tra esponenti politici e imprenditori, eccetera? Non è mai esistita una questione morale, non esisteva ai tempi nostri, non esiste adesso. Tra l'altro, tutte le volte che io sento usare gli aggettivi morale o etico mi vengono i brividi nella schiena, perché questi sono solo la premessa di logiche che oggi vengono bene rappresentate da Di Pietro, cioè di chi vuole sostituire lo Stato di diritto allo Stato etico e che quindi ritiene che in nome di un presunto bene può permettersi di fare qualsiasi cosa e di usare qualsiasi sistema per distruggere l'avversario. Era il taglio di chi, c'erano magistrati in quegli anni che lo dicevano esplicitamente, che dicevano vogliamo estirpare la corruzione, che equivale all'estirpare il male della Santa Inquisizione, diciamo così, in nome della quale si abbruciava, si torturava, si faceva qualsiasi inequizie, diciamo. Io sono figlio, e credo che il grosso degli italiani siano figli di Verri e di Beccaria, che hanno appunto rappresentato un grande passo in avanti di civiltà, passando dallo Stato etico allo Stato di diritto. Ecco, quindi il problema qual è? Ed è l'unica differenza dalla situazione di oggi alla situazione di ieri. C'erano anche allora ovviamente fenomeni di deviazione della legalità, di corruzione e così via, che andavano contrastati, se scoperti puniti, eccetera eccetera, ma erano, come si può dire, marginali, erano delle eccezioni, perché la politica era più forte. E oggi, come conseguenza di Mani Pulite, la politica è così debole che inevitabilmente nel vuoto della politica si introducono le logiche delle lotte di potere, delle guerre di bande, che tra l'altro, come abbiamo visto in questi giorni, dalla politica passano addirittura dentro il corpo della magistratura, perché non so come si possa definire altrimenti la vicenda dello scontro tra le procure di Salerno e quella di Catanzaro. Ecco, e quando la politica diventa lotta per il potere, guerra di bande, inevitabilmente prevale, come si può dire, la deviazione, inevitabilmente prevale la collusione. Però all'epoca la politica non diede l'impressione di essere molto forte, crollò il sistema in poco tempo. Crollò per una semplice ragione, crollò dall'interno, crollò perché alcune forze politiche approfittarono, quelle che tra l'altro avevano perso, erano state sconfitte dalla storia in questo senso, l'intervista di Formica è molto bella e molto chiara, i quali fecero fuori quelli che avevano avuto ragione, quelli che avevano vinto, quelli che avevano consentito al paese di andare nella direzione giusta, di stare dalla parte giusta, per sopravvivere loro. Non ci sono riusciti, sono sopravvissuti 15 anni e oggi finiscono come era inevitabile che finissero, diciamo così. Da questo punto di vista c'è una nemesi storica in questi giorni, per concludere? Questo sì, allora diciamola francamente. Il partito più partito di tutti, cioè il Partito Comunista, il partito che aveva l'organizzazione, come si può dire, professionale più forte, il partito che ovviamente aveva commesso il doppio reato di farsi finanziare dall'estero, dal PCUS, e in più ovviamente partecipava al finanziamento illecito di partiti come tutti, ha fatto fuori gli altri partiti in nome dell'antipolitica, della legalità, di queste cose qua, pensando in questo modo di, come si può dire, sopravvivere. E in effetti hanno vinto, perché hanno fatto fuori tutti i partiti di governo, hanno vinto a spese del paese e non sono riusciti, come era inevitabile, a salvare se stessi. Infatti non solo hanno deciso loro di sciogliere il loro partito, oggi non esistono più i postcomunisti, come è noto, esiste questo Partito Democratico che, guarda caso, e non è un caso, muore prima ancora di essere nato, sta finendo tra le convulsioni in questi giorni. Non credo, io penso che non arriverà addirittura nemmeno alle europee, delle condizioni addirittura. Ma penso che le contraddizioni sono tali, se leggo quello che leggo tutti i giorni, non parlo delle vicende, chiamiamole così, della legalità, delle vicende, ma parlo del dibattito tra di loro circa la collocazione in Europa, parlo delle discussioni tra di loro circa le alleanze, le direzioni di marcia. Questi ormai sono semplicemente un aggregato di bande politiche destinate inevitabilmente, come si può dire, a dissolversi, destinate a essere ad andare nella direzione centrifuga. Cosa che è tanto più grave, e chiudo su questo, perché guardando a quello che succede in Grecia e pensando che la Grecia con l'Italia siamo i due paesi più deboli dal punto di vista economico e sociale d'Europa, e vedendo come la situazione greca è esplosa di colpo in maniera drammatica, penso come non sia bene che in Italia proprio alla vigilia di questo passaggio difficilissimo che abbiamo di fronte, che avremo di fronte nei primi mesi del 2009. Lei dice ci sia non una forza politica. Non esiste più la sinistra riformista, né la sinistra antagonista, sono tutti quanti. La sinistra antagonista si riduce sulla vicenda di Luxuria e delle. De Michelis, se lei la vede in maniera piuttosto cupa, io la devo interrompere, la ringrazio. Allora. Bene, ci sono moltissimi messaggi sull'intervento a ruota libera di Gianni De Michelis, che avete sentito prima, alla fine era irrefrenabile. De Michelis si autoassolve, tutti ladri e vive i ladri, che tristezza, Lino da Sondrio, ma non ci ha detto questo De Michelis, per carità. Un altro ascoltatore, Marco, per favore rendete il discorso di De Michelis recuperabile su internet, molto interessante anche per un anticraxiano come me. De Michelis, l'unico che è sparito per il momento è lui, dice un altro. Santo subito, domani intervisti Jack lo squartatore sull'ingiusto processo, perché non dice delle condanne definitive che l'ospite ha avuto? Credo che De Michelis abbia un patteggiamento, se non sbaglio, qualcosa di questo tipo. Per carità, lo possiamo anche dire, ma non è che toglie validità o meno al discorso di De Michelis. Un altro, caro Cruciani, chiamare De Michelis a parlare di questione morale è come chiamare Rina a parlare di lotta alla mafia, Francesco da Milano, e questo mi sembra un tantinello esagerato. Chiede a De Michelis di parlarci del debito pubblico creato da Craxi, anche se bisogna precisare che il debito pubblico in Italia certamente non è che l'abbia creato solamente il governo presieduto da Bettino Craxi. E sentire De Michelis, a volte ritornano questa storia. È stata tirata fuori ad hoc la questione morale, bah. E poi altri ascoltatori ancora, quindi Craxi uguale a Domenici, bene, un altro ascoltatore ironizza su alcune frasi di De Michelis, ma noi andiamo avanti con Antonio da Napoli, eccoci qui Antonio, buonasera. Buonasera dottore, siccome ieri è intervenuto l'assessore dell'Albi, l'assessore al turismo. Sì, poi come al solito è caduta la linea e questa mattina in un'intervista al Corriere della Sera Velardi dice alcune cose molto interessanti a proposito dei cacicchi del Partito Democratico e continua i suoi attacchi nei confronti sia di Veltroni che di D'Alema. Vabbè. Sì, vabbè, volevo parlare un po' dei corsi di formazione della Regione Campania. In che senso? Si è parlato tanto. Cioè, io sono uno di quelli che è stato formato dalla Regione Campania per gestire i siti archeologici dei Campi Flegrei, forse che li conosce bene, no? Praticamente sono stati abbandonati a se stessi, sono diventate delle discariche. I signori dopo l'anno per noi non hanno fatto ancora niente, praticamente non ci hanno utilizzato affatto e hanno dato l'appalto come al solito a una società privata di nome Scapec. Cioè, io volevo chiedere a questo signore, l'assessore dell'Albi, se aveva intenzione di fare qualcosa per noi. Sì, però Antonio, glielo scriva attraverso una mail nei vari siti dove si può raggiungere Velardi, noi non possiamo fare nulla, possiamo fare da intermediari. Ma lei mi spieghi una cosa, questi corsi sono stati pagati naturalmente dalla regione per formare le persone che devono gestire i siti archeologici. Lei è stato formato e poi che è successo? Non è successo niente, praticamente. E cosa doveva succedere? Cosa doveva succedere? Praticamente dovevamo essere utilizzati per la salvaguardia dei siti archeologici dei Campi Flegrei che sono stati abbandonati a se stessi. E invece? Sono diventati delle vere e proprie discariche. Niente, è tutto fermo. Sappiamo solo che è stato dato l'appalto a una società privata, Scapec, che gestirà sicuramente solo i siti maggiori, quelli che gli fanno più comodo, dove può prendere degli infoidi, e del resto tutti i decimi di siti minori, i cosiddetti siti minori, saranno abbandonati a quello che sta succedendo. E dunque lei dice i soldi buttati per fare questi corsi della Comunità Europea, soliti corsi della Comunità Europea. Bisognerebbe fare una bella indagine sui corsi in generale, sui soldi che complessivamente l'Unione Europea mette nel circuito nel sud del nostro paese. La ringrazio Antonio, molto gentile di questa segnalazione. Andiamo a Varese d'Angelo. Buonasera dottor Crociari. Prego. Semplicemente intervenire dopo le parole dell'ex onorevole De Michelis mi viene difficile, anche perché il concetto di etica e di morale, anche stamattina espresso dall'onorevole Casini durante la trasmissione di Radio Anch'io, per me e per gli italiani dovrebbe essere uno dei concetti fondamentali, cioè la politica e l'onestà della politica. E l'aver dato la parola a De Michelis, ho sentito un sms che sì, era arrivato, sì. E mi lascia molto perplesso. Cioè, sono personaggi politici che hanno vissuto in un fenomeno corruttivo, ma non per volere fare il difensore di Di Pietro. Di Pietro sta tentando nei limiti del possibile, forse ne avrà anche dei vantaggi poi da questa sua operazione politica, ma il tentativo di dire moralizziamo la politica è quello che gli italiani credo vogliano in assoluto. Cioè tentare nei limiti del possibile di avere un governo gestito da persone che non fanno dell'intrallazzo personale come è stato fatto nei tempi del passato. E aver dato la parola a De Michelis, che era un rappresentante importante di quel partito, che l'intrallazzo lo ha fatto, poi si sono stati assolti, ma è tutto quanto molto discutibile. Per cui mi piacerebbe poter avere anche da parte vostra il parere di fronte a questo tipo di situazione, che è la situazione etica e morale, che forse meriterebbe di essere un attimo valutata con maggiore attenzione. Guardi Angelo, non c'è dubbio che in Italia ci sia un tasso di corruzione superiore rispetto ad altri paesi, da questo punto di vista, o di scarsa trasparenza, di minore anzi trasparenza rispetto ad altre nazioni europee. C'è maggiore opacità. Ma l'altro giorno il nostro Presidente del Consiglio ha dato del malvagio ad una persona, perché in qualche caso evidentemente Di Pietro dice c'è qualche conflitto strano in questo Presidente del Consiglio nei confronti del gestire la politica. Si è preso del malvagio, cioè io credo che la parola malvagio abbia una valenza veramente terrificante. Nessun giornale ha parlato di questo tipo di affermazione. Vabbè, Angelo, adesso francamente mi sembra una cosa di poco conto rispetto alle altre cose che si dicono ogni giorno, di stupidaggini che si dicono ogni giorno nell'arena politica italiana. La ringrazio. Paolo da Perugia, buonasera. Sì, buonasera. Allora, io volevo fare una piccola riflessione a seguito delle parole dell'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti, nonché del messaggio commerciale di Trenitalia passato pochi secondi fa. Allora, io premetto che sono un fautore convinto dell'ammodernamento delle infrastrutture del paese, quindi il benaltrismo per me non è mai nato prima di essere morto. Occorreva il tutto, e solamente questo mi impedisce però di notare come ci sia una disproporzione abissale tra l'interesse, le energie, la pubblicità e forse la propaganda che viene riservata all'alta velocità, con poi il trasporto regionale che coinvolge, ricordo, l'86% dei passeggeri italiani contro il 5% che usufruiscono dell'alta velocità. Guardi Paolo, però mi sembra che sono due questioni molto diverse. Su una c'è un'azienda che fa profitti, che investe perché è un settore in cui ci sono dei margini. L'altro è l'altra questione, che è quella dei pendolari, riguarda il rapporto tra le regioni, in fin dei conti alla fine lo Stato e le ferrovie. Questo è il punto fondamentale, per cui non è questione di entusiasmo o di investimento in un settore piuttosto che in un altro, che pure c'è naturalmente un investimento diverso, è che sono proprio due settori separati, ha capito? Non è che un settore viene trascurato e l'altro invece viene super curato. Su un settore ci sono grandi margini di guadagno, sull'altro ci sono trattative continue da fare con lo Stato e con le regioni per farsi dare i quattrini e fare delle linee operare su delle linee che non sono produttive, che non rendono nulla, capito? Ecco, no, ma a me questo concetto non sfugge, ma giustamente dicevo, Neuso è la stessa azienda, è sempre Trenitalia che si indirizza nell'alta velocità e trasporto regionale, sono sempre soldi pubblici, se vogliamo, no? In qualche modo, sì. Ma comunque Paolo, riprendiamo questo discorso se vuole domani, perché il tempo a nostra disposizione per questa sera è scaduto. Insieme a Gino da Roma e Rocco da Milano, domani 18:30.